Siamo con Francesco Bonomo per parlare dello spettacolo La Paura al Teatro Argo Studio dal 15 al 20 maggio, di cui firma la regia e l'adattamento. Francesco, ben trovato. Ciao, ciao Federico, ciao. Allora, avevamo con te affrontato già questo testo in una lettura che hai portato a Radio Onda Rossa, al Radioteatro. Intanto presentiamo questo testo di Federico De Roberto, ne parli tu? Sì, volentieri. Guarda, questo è un piccolo racconto che fa parte di una serie di racconti di De Roberto a tema Prima Guerra Mondiale. Non ha, diciamo, dei fondamenti storici precisi, ma parte da una situazione immaginata da De Roberto, molto credibile assolutamente, quindi una piazzola di, diciamo, di avvistamento sul versante italo-austriaco alpino. E questo racconto parla di un tenente che è a capo del suo plotone, appunto, che deve sorvegliare il canalone, diciamo così, da cui potrebbero attaccare i nemici, e ha una piazzola su cui manda i suoi soldati. Questa piazzola però è scoperta e quindi a un certo momento, dopo, diciamo, mesi, giorni e ore di inedia e inattività, un cecchino dall'altro lato comincia a tirare sulla piazzola ed uccidere i soldati del tenente e uccide tutti i soldati che il tenente manda, fino all'ultimo che si rifiuta di andare. Ecco, questo diciamo è proprio il plot in grandi linee. Quindi abbiamo da una parte il tenente che, come dire, deve eseguire un ordine per quanto lacerante, ovvero mandare a morte certa i suoi soldati, e i suoi soldati che ubbidiscono fino all'ultimo che si rivolta, si ribella, però diciamo con un esito poi drammatico, nel senso che pur di non appunto assoggettarsi all'ordine, decide di uccidersi. Ecco, ho spoilerato completamente lo spettacolo, però diciamo che la storia è importante, ma è marginale, cioè nel senso quello che è bello e quello che racconta il testo appunto è un po' la condizione del soldato alpino da una parte, la condizione di ogni soldato che si ritrova ad ubbidire ad un ordine sbagliato, e la condizione specifica del fronte alpino italiano, dove i plotoni e dove diciamo così, le truppe erano di un'Italia contadina e assolutamente mescolata tra di loro, quindi si trovava il lombardo insieme al siciliano, insieme al calabrese, in una lingua probabilmente che non comprendevano l'un l'altro esattamente, e questo De Roberto quasi con una vena verista, diciamo, lo riporta perfettamente, quindi diciamo, con l'utilizzo dei dialetti che noi abbiamo riportato nel testo teatrale, chiaramente modificando alcuni dialetti, usandone specificatamente degli altri, e quindi diciamo, questo aspetto polifonico rispetto alla lingua è molto interessante e rende proprio poi esattamente quello che era. Come hai deciso poi, dopo la lettura, l'arrivo alla messa in scena? Ma guarda, è un tema a me molto caro, Prima Guerra Mondiale, periodo a cavallo tra le due guerre e poi anche seconda. Quindi ero, diciamo, già sul tema per cercare qualche cosa che fosse, come dire, adattabile o comunque raccontabile. Ovviamente sono caduto su un anno sull'altipiano di Lussu, ovviamente sono caduto su rigori esterni. Alla fine ho trovato questo piccolo racconto che ha, diciamo così, questa possibilità teatrale, ovvero di un narratore unico, che è questo tenente di cui parlavo, e di tutti questi piccoli personaggi che esistono ma non dicono molto, sono presenti ma dicono poche battute. Quindi diciamo, c'è stata la possibilità di far migrare questo personaggio che nel racconto in realtà è raccontato in terza persona, quindi c'è una voce narrante ulteriore, ma mettere invece a lui in bocca la narrazione e permettere così di fare uno spettacolo, di fare una messa in scena, diciamo con un narratore, anche se mi piace dire che non è uno spettacolo di narrazione, perché per come l'ho riadattato e per come è scritto è un vero spettacolo interpretato, cioè l'attore interpreta il personaggio e tutti i personaggi che l'attore interpreta sono interpretati. Certo, un po' in terza persona, come direbbe Streller, certo un po' chiaramente a favore di un racconto verso il pubblico, soprattutto da parte del tenente, ma sicuramente è uno spettacolo non post-drammatico, ecco, cioè l'attore interpreta veramente i personaggi. Oltre alla questione centrale che hai detto prima della condizione bellica di trincea, quali sono gli elementi della scrittura di De Roberto che secondo te hanno più pregio? Come ti accennavo, la questione dialettale sicuramente, Sì. questa veramente è incredibile nella lettura, quasi comunque da ripercorrere i passi di De Roberto più volte per comprendere la scrittura, perché sono proprio, sai, quelle classiche scritture dialettali che a primo approccio non comprendi. Questo e poi sicuramente nel caso specifico del racconto, proprio la forma narrativa, che ha questa forma quasi, ha un incedere ritmico quasi, perché viene, come dire, scandito dai vari soldati che vanno in questa piazzola avanzata. Quindi il racconto ha veramente un ritmo, appunto, quasi teatrale, viene proprio punteggiato da questi soldati che vanno alla piazzola. Tra un soldato e l'altro che si muovono, che muoiono e che si muovono per andare alla piazzola, ci sono le riflessioni del tenente, che quindi, diciamo, aprono a un'intimità, a un'interiorità, diciamo, arricchite da me, anche da altre cose, ma su De Roberto più proprio rispetto alla questione personale del tenente. Io poi l'ho arricchita con, diciamo, delle riflessioni anche un po' più politiche, sulla questione. Senti Francesco, c'è uno spazio web dedicato a questo lavoro e alla tua attività? Una pagina Facebook, un sito internet? Sì, c'è una pagina Facebook che si chiama La paura spettacolo teatrale. Comunque, Perfetto. diciamo, sulla paura esce fuori, cioè, ci sono tutte le coordinate, un po' di materiale fotografico, non esattamente dello spettacolo, ma materiale fotografico che poi, come dire, dà la scena virtuale dove viene agito lo spettacolo, perché sono state fatte delle riprese video da un video artista. Su un ghiacciaio a 3.000 metri, che danno poi il fondale dello spettacolo, e queste stesse foto poi sono state riutilizzate per tutto il materiale pubblicitario e insomma per evocare questa montagna un po' desertificata, diciamo così. Sì. Allora, ricordiamo lo spettacolo La paura dal racconto di Federico De Roberto al Teatro Argo Studio a Roma dal 15 al 20 maggio. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Bonomo che firma adattamento e regia. Francesco, un abbraccio e ci si vede a teatro. Saluto a te, Federico, e a tutti quanti. Ciao ciao.